Cosa ne pensi di Lizzana? Beh, un bel paese, ci sono tante associazioni come quella degli alpini, l'asilo, e anch'io faccio parte dell'ente gestore di un asilo, però non questo di Lizzana ma di Lizzanella. Ha un qualche aneddoto che è successo qua a Lizzana o che è venuto qua? Sinceramente no, perché io abito qua da circa 15 anni, diciamo, però io ho sempre abitato a Rovereto, prima abitavo a Rovereto in Via della Terra. E come mai è venuto qua a Lizzana? È perché ho trovato una casa qui a Lizzana quando mi sono sposato. Ah, e quindi non... Cioè, ci sono questo. Degli aspetti negativi di Lizzana? Ma sinceramente, diciamo, non, in linea di massimo non ne vedo, a parte l'estate qualche ragazzo che fa dispetti, ma comunque è una zona tranquilla, diciamo. Dispetti di che tipo? Cioè, beh, ad esempio nella fontana chiudono lo scarico della fontana, esce l'acqua, lasciano lattine di Coca-Cola o di birra in giro un po', oppure durante delle serate non a tema, diciamo, esplodono petardi che così spaventano anche gli animali, perché se è l'ultimo dell'anno, diciamo, c'è qualche festa, va anche bene, ma altrimenti così